GR24, il sole 24 ore. Segnali di ripresa, ma no ai facili ottimismi, dice Napolitano. Ci vogliono riforme. Fu Provenzano a tradire Riina, ecco le nuove rivelazioni di Massimo Ciancimino. Scontro fra due treni nel Bresciano, ma nessun ferito grave, si sospetta l'errore umano. Champions League, il bilancio, italiano è molto meglio del previsto. Stasera in Europa League, Roma, Lazio e Genoa. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione, benvenuti all'edizione delle 13, che apriamo dunque con le parole del Presidente della Repubblica. È tornato sui temi legati alla crisi dell'economia, incontrando al Quirinale i nuovi cavalieri del lavoro, il Presidente della Repubblica Napolitano. I segnali incoraggianti di ripresa ci sono, ma non possiamo esprimere un facile ottimismo, ha ammonito il Capo dello Stato, che è anche tornato su un tema a lui caro, quello delle riforme, che, ha detto, rischiano di essere bloccate da contrasti e contrapposizioni. Continuerò a richiamare tenacemente il Paese e le forze che lo rappresentano, tutte le forze che lo rappresentano, alla necessità di una più serena e condivisa considerazione degli interessi in gioco per il nostro Paese in questa complessa, cruciale fase storica. Liberiamoci di quel di più, di quel di troppo, in termini di esasperazione dei contrasti e di contrapposizione dei punti di vista che può compromettere il nostro domani. La riduzione dei consumi delle famiglie, il peggioramento del mercato del lavoro e il tardare di una robusta ripresa degli investimenti sono gli aspetti della crisi che più preoccupano Napolitano, ma il Capo dello Stato ha parlato anche del ruolo delle banche, sottolineando l'importanza di un loro sostegno alle imprese. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ieri il Presidente della Repubblica, lo sapete, in occasione del 4 novembre era intervenuto sul tema delle forze armate e delle missioni all'estero. E a proposito di missioni all'estero, questa mattina c'è stato un nuovo attentato ai militari italiani in Afghanistan. Sentiamo. Solo ferite lievi per i quattro paraitaliani della Folgore colpiti da un ordigno esplosivo in Afghanistan mentre si trovavano a bordo di un blindato, come ha spiegato il tenente colonnello Marco Mele, portavoce del contingente italiano ad Herat. I quattro militari italiani sono rimasti praticamente illesi. Si tratta del primo caporalmaggiore Luca Telesca, che ha riportato un leggero trauma da scoppio, ma sta effettivamente bene. Si tratta poi del primo caporalmaggiore Francesco Catania, del caporalmaggiore Vincenzo Crispo, del caporalmaggiore Francesco Munafò, tutti praticamente illesi. Posso rassicurare chi ci ascolta, i militari hanno potuto parlare personalmente con i propri cari e rassicurarli di persona sulle loro condizioni di salute. Ogni ipotesi in questo momento al vaglio, quel che è certo è che l'esplosione è avvenuta nel corso di una ricognizione operativa, quando la pattuglia è rimasta coinvolta nell'esplosione. Si tratta dell'area della Zirco Valley, 20 km a sud di Shindad, e a seguito dell'esplosione il lince ha riportato dei danni, a seguito del quale però i nostri soldati, ribadiamo, sono rimasti illesi. L'attacco di oggi in Afghanistan contro i militari italiani è stato per fortuna senza conseguenze grazie al mezzo blindato sul quale viaggiavano e che continueremo a chiamare San Lince perché sta rispondendo benissimo agli attacchi, ha detto oggi il ministro della difesa Ignazio La Russa a margine della sua visita alla comunità ebraica di Roma. Intanto l'ONU ha deciso di evacuare o ricollocare provvisoriamente circa 600 dei suoi circa 1100 addetti, tutti stranieri, che operano in Afghanistan per rischi connessi alla sicurezza. La decisione dopo che il 28 ottobre scorso i talebani hanno ucciso 5 dipendenti stranieri dell'ONU in un attacco ad una loro sede a Kabul. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E ha a che fare con il terrorismo internazionale, col tema del terrorismo internazionale, la sentenza di ieri che sta facendo discutere in Italia, insomma la condanna degli agenti della CIA coinvolti nel sequestro Abu Omar. Il Dipartimento di Stato americano ha espresso delusione e disappunto, mentre il Pentagono prepara il ricorso in appello. Nel linguaggio delle cancellerie ciò denota una notevole irritazione, dice l'ex ambasciatore Boris Biancheri, presidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Credo che l'America capisca con difficoltà, e effettivamente è una sentenza molto complessa che sul piano giuridico si spiega ma che ha bisogno di essere spiegata. L'America è sorpresa che gli imputati italiani vadano assolti a causa della segretazione del processo e che invece 23 imputati americani vengano condannati. Di questi poi 3 sono invece assolti perché immuni diplomaticamente, il che rende ancora più, se posso dire, bizzarra agli occhi di uno straniero che non conosce i meccanismi complessi della giustizia italiana l'intera vicenda. C'è un certo stupore che si traduce anche in disappunto, come è stato detto, cioè in irritazione. Esiste il rischio di un raffreddamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, ad esempio? Credo che esista una certa diffidenza da parte americana nel condurre la lotta al terrorismo secondo i criteri con i quali è stata condotta da parte americana fino adesso. L'idea è: non ci possiamo fidare di accordi che le forze di sicurezza preposte alla repressione del terrorismo possono prendere fra loro, perché poi non vengono mantenute quando la cosa va davanti a un tribunale. E poi c'è l'altro aspetto, naturalmente ne parlava già Boris Bianchieri, e questo fa discutere soprattutto in Italia. Non giudicabili per l'esistenza del segreto di Stato l'ex numero uno del Sismi Niccolò Pollari e l'ex dirigente Marco Mancini e appunto gli agenti della CIA condannati. Sul segreto di Stato il commento di Daniele Biacchessi. È la seconda volta che in un processo per fatti legati a terrorismo viene chiesto e applicato il segreto di Stato. Accadde nel procedimento contro alcuni neofascisti toscani, accusati di aver progettato ed eseguito la strage sul treno Italicus il 4 agosto 1974 nella galleria ferroviaria Tavernio a San Benedetto Val di Sambro. Ieri, a causa del segreto di Stato, i vertici del Sismi, Pollari e Mancini, non sono stati condannati al processo per il rapimento dell'ex imam di Milano Abu Omar. Ma il giudice ha accertato la responsabilità degli uomini della CIA, il servizio segreto americano. È vero, dirà qualcuno, non si commentano mai le sentenze. Ma è strano che in un rapimento dove CIA e Sismi erano insieme coinvolti sul piano operativo in un fatto illegale, poi le loro fortune o sfortune giudiziarie vengono separate. In questo caso il segreto di Stato è stato chiesto dai governi di centrosinistra e di centrodestra. Quel segreto che non ci ha permesso ancora oggi di entrare nei vari armadi della storia, quelli che contengono certamente le verità negate sull'operato degli apparati dello Stato, sui mandanti politici delle stragi di Piazza Fontana, Questura di Milano, Piazza della Loggia a Brescia, Italicus, Ustica, Bologna, Rapido 904. Una verità negata ai cittadini, prima ancora che alla politica e alle istituzioni del nostro paese. E ora qualche dato che è stato diffuso questa mattina. Sono oltre 13 milioni gli europei adulti che hanno provato cocaina nella loro vita. Di questi 7 milioni e mezzo sono tra i 15 e i 34 anni, 3 milioni dei quali l'hanno usata negli ultimi 12 mesi. Si conferma perciò, secondo il rapporto 2009 dell'Osservatorio Europeo sulle droghe presentato oggi a Bruxelles, la sostanza stimolante illegale più popolare del vecchio continente. Il suo uso è in costante aumento, con l'Italia al quinto posto tra i paesi consumatori. Ma di cocaina si parla anche per un'altra questione che riguarda la politica. A questo era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Sentiamo. Il primo a mettersi in fila oggi è il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Farò il test antidroga, ha detto, e come me dovrebbero fare tutti i politici. D'altronde, chi ha posizioni di comando deve metterci la faccia. Ma davvero un politico, secondo voi, dovrebbe fare un test per dimostrare che è pulito? Ve lo chiedevamo oggi ed è stato un plebiscito. Il 91% di voi dice di sì, il che suona anche un po' impregnato di populismo contro la casta per eccellenza, quella dei politici. Anche Alessandra Mussolini la pensa così: test obbligatorio per tutti. Camera, Senato, assumendosi Fini e Schifani la responsabilità, perché io credo che i politici abbiano un onere in più rispetto ai cittadini comuni e quindi bisogna farlo totalmente. Chi si rifiuta poi verrà giudicato, chissà perché. Obbligatorio. Beh, certo, su base volontaria chi lo fa? Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle cronache dell'influenza A. Oggi l'attesa visita del viceministro Fazio a Napoli, dove ci sono stati molti casi, in diretta al capoluogo partenopeo. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno. La visita napoletana del vice ministro Fazio è terminata intorno alle 12.30. È stata rassicurante e le strutture sanitarie sono in grado di affrontare l'emergenza. Così ha detto al termine in una conferenza stampa e dopo aver affrontato una mattinata iniziata negli uffici della regione. In 4 ore ha incontrato i medici di base e visitato i reparti di rianimazione degli ospedali Cotugno, Monaldi e Policlinico Federico II, sottolineando che soprattutto questi ultimi due sono casi di eccellenza. L'appello che rinnova da Napoli il vice ministro è a vaccinarsi, soprattutto ai soggetti con malattie croniche, che in Italia, secondo le fonti del governo, sono circa 7 milioni e per il 90% di questi si pensa di poter garantire una quantità adeguata di vaccino entro dicembre. Da Napoli è tutto, linea dello studio. Grazie dunque Laura Vigiano per questi aggiornamenti, ma l'influenza A sta anche in parte cambiando, almeno in questo periodo, il nostro modo di vivere. Solo Totò ci sapeva far sorridere anche delle malattie. De Facchinos! Pronto, signor! Como? Ma che como? Noi veniamo da Roma! Spagnolo? Io ho avuto la spagnola da ragazzo, sì. Un giorno rassicurati da medici, istituzioni e media, il giorno dopo autorizzati a ripiombare nel panico. Intanto più o meno coscientemente cambiamo le abitudini. Sugli scaffali di farmacie e supermercati abbondano gli igienizzanti per mani. Il vecchio sapone non ci pare più abbastanza. Per non parlare degli sguardi preoccupati e un po' di rimprovero quando qualcuno accanto a noi starnutisce. Anche in chiesa si fa attenzione. Nel Duomo di Milano ora acquasantiere vuote, nessuna confessione attraverso la grata, inchino invece del segno di pace. Ma come stiamo reagendo a questo momento di preoccupazione? Marco Lombardi, docente di sociologia alla Cattolica di Milano ed esperto in gestione della crisi. Sicuramente questa influenza si muove più velocemente. Questo immediatamente nella nostra percezione rende le cose molto più pericolose, molto più rischiose. Oddio, che cosa sta succedendo? Quando la stessa cosa accade tutta in una volta, invece che diluita nel tempo, questo immediatamente ci fa sentire sotto attacco. Vaccini nel caos, ma come farsi vaccinare è il grande titolo da mettere. Per la gente vuol dire fare un servizio utile in termini comunicativi, senza spaventarla e mettendola nelle condizioni di rispondere efficacemente a quelli che sono i bisogni manifestati da questa epidemia di influenza. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:11 minuti, 33 secondi, termina così questa prima parte del GR. Ci risentiamo tra poco e parleremo delle nuove rivelazioni del figlio di Vito Ciancimino, Massimo, sul fatto che appunto Provenzano avrebbe tradito Rina. Tra poco. Le 13:15 minuti e 58 secondi, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato delle parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del nuovo attentato avvenuto questa mattina contro gli italiani in Afghanistan. Siamo tornati sulla sentenza che ha condannato gli agenti CIA, ma non l'ex capo dei servizi Niccolò Pollari, e poi abbiamo parlato di influenza. Tra un attimo andremo a parlare dell'incidente ferroviario del quale si accennava nelle nostre informazioni sulla viabilità, ma prima parliamo di criminalità organizzata. Bernardo Provenzano indicò il covo di Totò Riina. Massimo Ciancimino, figlio di Don Vito, rivela ai magistrati di Palermo nuovi retroscena sulla cattura di uno dei capi di Cosa Nostra dopo la stagione delle stragi. Una cattura che, a suo dire, avverrebbe nell'ambito delle trattative tra Stato e mafia, delle quali tanto si discute in queste settimane. Tra le righe, Ciancimino aveva già rivelato questa circostanza settimane fa a Radio 24 in un'intervista a Raffaella Calandra. Ebbene, sentiamola. Il rapporto primario nasceva con Lo Verde, alias il Provenzano. Anche negli atti processuali di queste inchieste, che sono tuttora aperte, è venuto fuori del ruolo di suo padre anche nelle catture dei latitanti eccellenti, primo tra tutti Riina. Il ruolo di mio padre nell'arresto di Riina, credo che qualcosa oggi si può leggere anche in qualche sentenza. Il fatto stesso che questa fase della trattativa che poi portò all'arresto, questo è qualcosa che ormai è acclamato nelle sentenze, per cui... Quindi suo padre sapeva dove si nascondeva Riina, o comunque ha potuto saperlo? Che mio padre avesse chiesto, avesse avuto le risposte in merito dove era possibile l'ubicazione della abitazione Riina dei familiari, questo lo so per certo, perché sono stato io quello che anche ha preso queste famose piantine dove era circoscritta la zona dell'abitazione di Rina. Ma qual era il canale che ha portato a circoscrivere la zona dove si trovava Rina in quel momento? Visto quello che ho risposto prima, non è difficile arrivare a quale poteva essere l'origine di queste informazioni a mio padre, visto che credo che poteva essere anche uno a poter sapere questo tipo di logistica all'interno di Cosa Nostra. Continuiamo a parlare di criminalità organizzata. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato delle operazioni di polizia contro l'andrangheta nella zona nel milanese. Bene, la notizia di oggi è che un'azienda della grande distribuzione ha scelto di costituirsi parte civile nel procedimento contro alcuni accusati. Secondo il PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Mario Venditti, è la prima volta che accade sotto la Madonnina ed è un fatto rarissimo a livello nazionale. Ma l'avvocato della società minimizza: per noi è una decisione abituale. Di fatto la scelta della SMA ha fatto notizia. La società del settore supermercati, che ha sede a Segrate, ha deciso di costituirsi parte civile nei confronti del presunto boss dell'andrangheta Marcello Paparo, accusato di associazione mafiosa con altri 30 soggetti in un procedimento che riguarda il sistema degli appalti nella zona nord di Milano. In seguito all'incriminazione per mafia della figlia di Paparo, Luana, presidente di un consorzio che per la SMA faceva facchinaggio, a marzo 2009 la società di Segrate, in nome del proprio codice etico, cambiò fornitore, ma la pagò cara. I lavoratori del consorzio rescisso bloccarono per alcuni giorni i magazzini SMA, impedendo di rifornire i supermercati. Tuttavia, secondo i PM, dietro a quel blocco c'era una decisione degli accusati e ora la SMA chiede giustizia. L'avvocato Daniele Ripamonti: l'azienda non ha fatto una valutazione di tipo, come dire, simbolico, politico, no, ha fatto una valutazione di carattere assolutamente imprenditoriale. Abbiamo subito un danno, accusati di aver creato questo danno sono queste persone, noi ci costituiamo parte civile, i miei clienti. Circostanze analoghe anche in altre parti d'Italia si sono sempre costituiti parte civile. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. C'è stata una grande operazione questa mattina della Guardia di Finanza di Milano contro l'evasione fiscale, un'evasione fiscale da 300 milioni di euro, un'operazione con 100 indagati. Ci spiega di cosa si tratta il colonnello Ernesto Bruno, comandante dell'ufficio operazioni del nucleo di polizia tributaria, appunto, delle Fiamme Gialle di Milano. L'indagine odierna trae origine dall'arresto avvenuto nel mese di febbraio dell'avvocato, di un noto avvocato svizzero, al quale fu sequestrato il proprio personal computer. All'interno di questo computer è stato rinvenuto un file contenente i nominativi dei suoi clienti italiani. L'avvocato svizzero, insieme a altri due commercialisti milanesi, attraverso società avente sede soprattutto in paradisi fiscali, emetteva numerose fatture false a fronte di prestazioni di servizio mai effettuate nei confronti delle società compiacenti italiane. Le società compiacenti italiane traevano un duplice vantaggio: il primo era quello di portare all'estero illegalmente e quindi numerosi fondi, numerose risorse finanziarie che venivano sottratte così al fisco, e la seconda è che annotavano le fatture false nella propria contabilità e le portavano quindi in deduzione, quindi non pagando le tasse su questi costi, insomma. Restiamo sulla cronaca. In mezzo alle polemiche sulle condizioni di vita in carcere, sulla scia dei casi Cucchi, Blefari e Teramo, stanno emergendo molte storie, note e meno note, come quella di Luca Campanale, un giovane di 28 anni con problemi psichici, suicida nel carcere milanese di San Vittore il 12 agosto scorso. Da mesi il padre chiedeva che venisse trasferito in un ospedale psichiatrico. «Stasera vengo a casa, papà», è l'ultima frase che Luca Campanale, 28 anni, dice al padre nella stanza delle visite del carcere di San Vittore, poche ore prima di impiccarsi nella cella dove stava scontando 2 anni per scippo. È il 12 agosto scorso, il padre realizza tragicamente il senso di quelle parole solo quando in piena notte gli arriva la telefonata del cappellano del carcere. Michele Campanale lo ha raccontato al Quotidiano Nazionale, denunciando quella che definisce la morte annunciata del figlio. Una morte su cui la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta che vede indagati uno psichiatra e una psicologa del carcere per abbandono di persona incapace. Secondo il PM, il giovane, con gravi problemi psichici, 2 tentativi di suicidio alle spalle, doveva essere trasferito in una struttura idonea, come chiesto invano dalla famiglia per mesi. Illegale, Maria Pina Blanco. Non so chi non ha capito, ma chi doveva capire non ha capito. La risposta formale ad una mia istanza formale è stata negativa, dicendo che comunque era compatibile con il carcere. Sarebbe forse bastato, guardi, vederlo. L'avrei sbattuto fuori subito se io fossi stato un medico. Maria Luisa Pezzali, GR 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono alcune persone, il numero non è ancora chiaro, in realtà rimaste tra ferite e contuse nell'incidente ferroviario avvenuto intorno alle 7:30 di questa mattina a Vello di Marone. Siamo nel Bresciano, un treno con a bordo circa 130 passeggeri si è scontrato frontalmente con un locomotore merci. Sentiamo l'amministratore delegato delle Nord, la società delle Ferrovie Nord Milano che gestisce i treni, Luigi Legnani. Da sottolineare c'è che il treno passeggeri, quando si è reso conto che in linea c'era un mezzo che non avrebbe dovuto esserci, ha avuto il macchinista la fortezza di fermare il convoglio e di far spostare i passeggeri all'interno del treno, cosa che ci ha consentito tutto sommato di aver avuto una 6-7 codice verde, quindi persone soprattutto con contusioni, e poi un unico codice giallo che abbiamo avuto, che però si è poi trasformato in un codice verde dopo gli accertamenti in ospedale che sono stati fatti a una signora. Ecco, questo è stato la dinamica. Ecco, stiamo ovviamente cercando di acquisire tutti gli elementi, il registratore di eventi a bordo del treno, naturalmente il registratore che è stato sequestrato dalla polizia. Ci sembra di capire, ingegnere, che sospettiate un errore umano? Beh, diciamo che stiamo cercando di capire bene il comportamento del personale, certo. Questo, ripeto, usato i termini serietà e severità. Un paio di notizie appena diffuse dalle agenzie, una di politica e una di economia. Quella di economia, la Bank of England, la banca centrale britannica, ha deciso di lasciare fermi i tassi di interesse allo 0,5%. Oggi sui tassi, tra l'altro, dovrà decidere la Banca Centrale Europea. E c'è una dichiarazione che arriva invece dalla Polonia per la possibile nomina di Massimo D'Alema a rappresentante degli esteri europeo. Ebbene, dice l'ambasciatore polacco, sarebbe un problema per i paesi dell'ex patto di Varsavia a causa del passato di D'Alema. E noi restiamo in Europa, perché il Parlamento e il Consiglio europeo hanno trovato invece nella notte un'intesa forse definitiva sul pacchetto di riforma delle telecomunicazioni. Le norme entreranno in vigore il prossimo anno e gli Stati membri avranno 18 mesi per recepirle. Tra le novità, alcune riguardano la pirateria online. In tutto il mondo governi ed esperti si interrogano sul ruolo che la legge deve avere per punire chi scarica illegalmente musica o film da internet. Ora una posizione chiara arriva da Bruxelles, che nel pacchetto di legge che riforma il settore delle telecomunicazioni europee dice no al taglio semiautomatico dell'accesso al web in caso di pirateria. Di fatto si tratta di una posizione più morbida rispetto a quella francese, dove un'apposita autorità dal prossimo anno potrà tagliare l'ADSL di chi, dopo essere stato avvisato due volte, continui a scaricare file illegali dai sistemi peer-to-peer. L'Europa dice invece che il taglio della connessione potrà avvenire solo in caso di effettiva necessità e la misura dovrà essere proporzionata. Le nuove norme che riformano tutto il settore delle telecomunicazioni prevedono anche la creazione di una nuova authority europea sulle comunicazioni elettroniche. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo in chiusura con il calcio, sempre discusso al centro di polemiche. Nella due giorni di Champions, il calcio italiano ha dato la risposta più attesa, quella del campo. Tre vittorie e un pareggio che fa classifica e morale, quello del Milan nel big match col Real Madrid. Più povero di quello spagnolo, meno vincente e glamour di quello inglese, braccato da vicino dagli storici rivali tedeschi, il calcio italiano prova a dare segnali di rinascita partendo dal campo. E allora ecco una due giorni di Champions da infiocchettare. L'Inter che fa l'impresa in rimonta nel gelo di Kiev, la Juventus che incamera tre punti preziosi in Israele contro il Maccabi Haifa. Senza dimenticare poi la goleada della Fiorentina col De Brezzeni, magari scontata, magari attesa, ma riuscire a fare bene i compiti facili è il primo passo per trasformarsi da buona a grande squadra. Certo, per il poker di italiane gli ottavi di finale sono ancora da conquistare e alcune big d'Europa, vedi Manchester United e Chelsea, l'hanno già fatto, ma la strada sembra quella giusta. La prova del 9 stasera con Lazio, Roma e Genoa in campo in Europa League. Urgono conferme anche dalle seconde linee. Dario Ricci, GR 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchese, con in regia Pietro Lacorte. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.